Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guardaci un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Guardaci un bel film, canta Battisti in un celebre brano tratto dall'album Una donna per amico nel 1978. Una frase che ognuno di noi ha pronunciato almeno una volta nella vita. In realtà, non potendo ancora sapere se il film in questione sia davvero bello, abbiamo scorso la lista del casting scandendo ad alta voce i nomi più noti. Oggi come ieri. Negli anni 50 si poteva forse perdere un film con James Dean o Elizabeth Taylor? E alla fine degli anni 70, come non correre a vedere De Niro ingrassare 30 kg mentre il collega Pacino prova a rapinare una banca un qualunque pomeriggio di un giorno da cani, poco distante da dove Dustin Hoffman e Meryl Streep decidono di porre fine alla famiglia Kramer. Don't talk to me that way. Okay, look, I don't want to get into this. Look, you're gonna have to do what you're gonna have to do, and I'm gonna have to do what I'm very sorry about this. Okay, just do what you have to do. Oggi a Destini Incrociati parliamo di cinema. Non è la prima volta. Abbiamo raccontato di straordinarie storie di attori, registi, sceneggiatori e produttori. Ma questa volta andremo oltre, scenderemo in profondità. Scaveremo nelle anime di uomini e donne capaci di trascendere la tecnica del recitare per sublimarla in arte. A volte riuscendo a portare quest'arte a livelli insuperabili, altre a perdersi in essa con conseguenze talvolta irrimediabili. Prima di spostarci negli Stati Uniti, là dove la nostra storia si svolge, ascoltiamo le parole di Vittorio Gassman, l'attore italiano che forse più di ogni altro ha incarnato l'inquietudine spesso legata alla recitazione moderna. Non si recita per guadagnarsi il pane, si recita per mentire, per smentirsi, per essere diversi da quello che si è. Si recitano parti di eroi perché si è dei vigliacci, si recitano parti di santi perché si è delle carogne, si recita perché si è dei bugiardi fin dalla nascita e soprattutto si recita perché si diventerebbe pazzi non recitando. Diventare pazzi non recitando, oppure al contrario rischiare di impazzire proprio perché si è recitato troppo intensamente e ci si è persi dentro se stessi in quel processo di intima rielaborazione del personaggio che si è impossessato del suo alter ego, l'ha fatto prigioniero, non lo lascia più. Un rischio al quale si dichiara disposto, che accetta di seguire un metodo di studio elaborato nei primi anni del Novecento e che prende il nome dallo pseudonimo del suo inventore, il regista e teorico teatrale russo Konstantin Sergeevich Stanislavski, le cui parole rivivono per bocca di Emanuele Vezzoli nella pièce teatrale La bicicletta di Stanislavski. Avete sentito? E sapete che cosa ripeto ai miei attori ogni giorno? Abbiate cura delle parole. Non Non riducete a un chiacchiericcio, vanificando così la loro spiritualità. Questo cicareccio, una volta che si è insinuato nella linea del personaggio, vanifica tutte le sollecitazioni umane vive che compongono il sottotesto del ruolo. Date sfogo all'immaginazione, cercate le intenzioni, solo così il dramma prenderà vita sulla scena. E voi mi accusate di scambiare una chiesa per una basilica. Beh, io vi dico che per me anche una pausa grida come un ossesso, oppure sussurra come un pettirosso. Voi mi accusate di stravolgere il senso del vostro dramma. Se questo dovesse avvenire, allora voi verrete da me e io vi chiederò umilmente perdono. So if you're feeling lonely, down, you're the only one I ever was. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should. Con il metodo messo a punto da Stanislavski nei primi anni del Novecento, per la prima volta si pensa all'educazione dell'attore al di fuori della messa in scena dello spettacolo, ponendo le basi razionali all'apprendimento dell'arte della recitazione. Il grande maestro russo insegna che per imprimere vita al personaggio, l'attore deve sempre partire da se stesso, ricorrendo alla memoria emotiva per trovare dei punti di contatto tra la sua vita e quella del personaggio, andando a ritroso alla ricerca dei momenti che hanno provocato sentimenti analoghi. Un metodo e un percorso psicologico che affascina e conquista molto presto numerosi attori e registi europei e americani fin dai primi anni del Novecento. Tra questi, nato in Turchia da una famiglia di origine greca, un giovane attore teatrale emigrato negli Stati Uniti ne è forse il più convinto sostenitore. Il suo cognome d'origine è Kasanshoglu. Gli americani lo chiamano Elia Kazan, ma noi lo riconosciamo universalmente come Elia Kazan. Elia Kazan. Ladies and gentlemen, Mr. Elia Kazan. I thank you very much. I really like to hear that. And I want to thank the Academy for its courage, generosity, and I want to tell you that I've been a member of the Academy on and off for I don't know how many years, so I'm pleased to say what's best about them. They're damn good to work with. I also want to thank Marty. Where are you? Hiding behind me? Come on here. Right behind you. Where's Marty? And Bobby De Niro. Siamo partiti dalla fine e dall'infinito applauso dell'Academy nel 1999 per la consegna dell'Oscar alla carriera dalle mani di Robert De Niro e Martin Scorsese a quelle di Elia Kazan. Ma ora riavvolgiamo la pellicola e torniamo indietro nel tempo per immergerci nella New York del secondo dopoguerra, quando un giovane Kazan decide di mettere a frutto gli insegnamenti di Richard Bolesavsky, leader di un gruppo di emigranti russi facenti parte dell'American Laboratory Theater, sostenitore della rivoluzione sociale alla bolscevica, ma soprattutto della tecnica recitativa improntata al realismo psicologico, ovvero il metodo Stanislavski. Per Kazan, da sempre innamorato di recitazione, studiata a Yale ai tempi dell'università e mediocremente esercitata sui palcoscenici di Broadway, è una folgorazione. Intuisce che affinché il metodo possa funzionare, deve essere adattato alla scuola di recitazione americana. Una sua scuola. Ne parla con entusiasmo profetico con Cheryl Crawford e Robert Lewis, amici e colleghi appartenenti al collettivo teatrale chiamato The Group Theater, a sua volta ispirato alla psicotecnica teatrale. Li convince ed è il 1947 e al 432 West della 44esima strada di New York nasce così l'Actor Studio. La macchina da presa è più di un registratore, è un microscopio, penetra. Entra dentro le persone e consente di vedere i loro pensieri più intimi e nascosti. E sono riuscito a farlo con gli attori. Voglio dire, ho rivelato cose che gli attori non sapevano stessero rivelando di loro stessi. Che cosa abbia rivelato Kazan a Marlon Brando di se stesso, al punto da portarlo a vincere l'Oscar nel 1954 per l'interpretazione di Terry Malloy in Fronte del Porto? Non lo sapremo mai. Ma certo è che il grande attore originario di Omaha è solo uno dei molti figli professionali di Kazan e della sua scuola che nei primi anni 50 apre i battenti a New York, attirando gli attori più promettenti del periodo. Anni che per gli Stati Uniti rappresentano uno dei periodi più bui per quella che da sempre si è autodefinita la terra degli uomini liberi. Tra il 1950 e il 1954 la politica americana assume un atteggiamento di esasperato anticomunismo che dà luogo a una serie di purghe politiche a ogni livello e in ogni campo. Ma soprattutto in quello intellettuale, in un clima di vera e propria caccia alle streghe. È il maccartismo, termine dell'uso politico statunitense che prende il nome dal senatore repubblicano del Wisconsin, Joseph McCarthy. Il suo schema è molto semplice. Chiunque critichi o si opponga ai metodi del senatore McCarthy deve essere un comunista. Se questo è vero, ci sono moltissimi comunisti nel nostro paese. Nelle parole del giornalista americano Edward R. Murrow, figura storica della lotta al maccartismo, qui interpretato da David Strathairn, nello splendido bianco e nero di Good Night and Good Luck di George Clooney, c'è la perfetta sintesi del clima persecutorio di quegli anni, che molto presto fa sentire i suoi effetti anche nel mondo del cinema. Convocato dalla commissione nel gennaio del 1952, Elia Kazan ammette di essere stato iscritto al Partito Comunista fra il 1934 e il 1936, ma all'inizio si rifiuta di fare i nomi di chi ha incontrato durante la sua militanza durata 19 mesi. Un'udienza dopo l'altra, tuttavia, la pressione si fa insopportabile, assieme alla paura di finire sulla lista nera, di perdere il lavoro e forse anche la cittadinanza. Alla fine Kazan si arrende. Non ci fu proprio nessuna discussione onesta, ma solo un tentativo di accertarsi che avessimo bevuto ogni frase senza discuterla. Ne avevo abbastanza dell'irregimentazione, abbastanza di sentirmi dire cosa pensare, cosa dire, abbastanza delle loro violazioni abituali, delle pratiche della democrazia alle quali io sono abituato. La goccia che fece traboccare il vaso venne quando mi fu chiesto di esibirmi in una di quelle tipiche scene comuniste in cui si striscia e si fa autocritica. Elia Kazan fa i nomi. Prima dell'udienza definitiva prova ad avvertire le persone delle quali avrebbe parlato e che del resto sono già state segnalate da altri testimoni, ma non basta. Elia perde per sempre vecchi e cari amici, ma forse il suo unico timore è di essere rifiutato dal paese che ha accolto lui e la sua famiglia e che da molti anni lo ospita. Il tormento tipico di ogni emigrato. Nell'udienza dell'aprile del 1953 pronuncia queste ultime parole al riguardo. Ho compreso l'ambivalenza delle cose. Il valore dei punti di vista opposti e soprattutto che scegliere significa fare e farsi del male. Per ottenere una cosa se ne perde un'altra. Era tutto diventato più complicato, a cominciare dalla mia visione dell'umanità. Ho sofferto molto all'inizio. Alcune persone mi avevano voltato le spalle e questo mi rendeva triste. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Il maccartismo, che Eleanor Roosevelt definirà una vera e propria ondata di fascismo, violenta e dannosa, termina nel 1954, quando una commissione del Senato vota la mozione di censura contro il senatore McCarthy, costretto a cessare l'attività di indagine persecutoria. Molti danni sono stati recati, ma niente, come nello show business, sa rapidamente rimettersi in moto. Mentre Elia Kazan è impegnato nelle aule della commissione McCarthy, all'Actor Studio si deve porre rimedio alla temporanea assenza del loro leader e fondatore. Da qualche tempo la direzione della scuola è stata affidata a un attore e regista teatrale, a sua volta appartenente al Group Theater. Anche egli, come Kazan, è un immigrato, nato in Ucraina, emigrato bambino negli Stati Uniti e come lui innamorato del metodo Stanislavski. Il suo nome è quello del nostro secondo protagonista, Lee Strasberg. Lee Strasberg. Il problema dell'espressione è stato trattato come un processo puramente meccanico piuttosto che un mezzo per condividere il proprio modo individuale di avere esperienza. Soltanto gli artisti sono riusciti a interrompere questo circolo vizioso. Tutti gli esseri umani hanno ancora più bisogno di questo se la vita non deve ridursi a una recita di ruoli. È mia opinione che le scoperte e i procedimenti essenziali per la capacità dell'attore siano ugualmente necessari, se non di più, al profano. Il lavoro che facciamo, ciò che viene chiamato il metodo, non è altro che la somma totale delle esperienze di tanti grandi attori del passato, delle testimonianze e delle dichiarazioni che hanno lasciato e di ciò che abbiamo visto nella nostra esperienza. Non è semplice la vita della famiglia Strasberg nei primi anni del Novecento. La repressione russa in Ucraina orientale spinge all'esodo di massa gli intellettuali in fuga dai sempre più pericolosi nazionalismi europei. Il piccolo Israel ha solo 7 anni quando per la prima volta scorge il profilo di quella che diventerà la sua città per il resto della vita. New York lo accoglie insieme alla sua famiglia e a milioni di emigranti da tutta Europa, che in pochi anni diverranno parte integrante multietnica del tessuto sociale statunitense. Gli Strasberg, insediatisi nel Lower East Side, decidono di far cadere un S dal loro cognome di origine, lasciando inalterata la pronuncia, mentre Israel si trasforma in un più rassicurante Lee. Ed è con questo nome, Lee Strasberg, che nel 1924 si iscrive al Clare Tree Major School of Theatre, una scuola di formazione per attori. Una decisione presa dopo aver assistito a un'esibizione di Eleonora Duse su un palcoscenico di Broadway. Una vera e propria rivelazione. Grande mare, grande cielo, grande New York, grande speranza, grande affanno. Stasera si recita. Ce la faccio, ce la faccio. Un'ultima prova di memoria qua, in albergo, e poi in teatro. E ricordatevi di aprirlo, il teatro. Ieri mi avete lasciato ad aspettare sotto l'acqua, ecco, perché ho la febbre. Negli anni venti, Lee Strasberg, lasciato il modesto lavoro di spedizioniere e marittimo, decide che farà del teatro la sua vita e fin da subito ha un'idea ben precisa sulla recitazione. Un lavoro di duro allenamento e precise regole cui sottostare per evitare comportamenti artificiosi e falsati, alla ricerca della verità nell'interpretazione. Gli insegnamenti del Clare Tree, tuttavia, non lo soddisfano. Incentrati come sono sulla poetica del gesto enfatico e della dizione innaturale, rispecchianti lo stile del teatro di vecchia maniera. Il giovane Strasberg ha in mente altro. Non è un grande attore, recita saltuariamente in piccoli ruoli per i circoli drammatici ebrei della città, ma è un tenace studioso di tutto ciò che è drammaturgia, compresi i lavori dei grandi del passato e i testi sull'arte drammatica. Su tutti, il fondamentale paradosso sull'attore, il trattato d'arte drammatica scritto dal filosofo francese Denis Diderot e base delle moderne teorie sul lavoro dell'attore. Un attore che ha soltanto buon senso e giudizio è freddo. Uno che ha soltanto vivacità e sensibilità è folle. Soltanto una combinazione di buon senso e di calore fa l'uomo sublime, e sulla scena come nella vita. Chi mostra più di quanto sente fa ridere invece di commuovere. E l'estrema sensibilità che fa gli attori mediocri è la sensibilità mediocre che fa l'infinita schiera dei cattivi attori. Ed è l'assoluta mancanza di sensibilità che prepara gli attori sublimi. L'attore non è un passivo imitatore, né un artista che basa la sua arte sulla sola sensibilità o sullo slancio romantico delle passioni. C'è bisogno, infatti, che l'attore non soltanto studi i grandi modelli precedenti, ma si affidi nell'interpretazione alla razionalità, che gli potrà permettere di ottenere risultati costanti. L'eccessivo slancio causa nell'attore un eccesso di artificiosità nella recitazione. Una studiata razionalità unita alla perspicacia otterrebbe invece la naturalezza dell'interpretazione. Parole scritte sul finire del XVIII secolo che diventeranno di grande ispirazione per il XX. Tra poco, a Destini Incrociati. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo calcando le storiche assi del palcoscenico di prova dell'Actor Studio di New York. A fondare e dirigere l'acting school più famosa e prolifica di sempre, due attori e registi capaci di portare la recitazione nell'era moderna, trasformandone radicalmente l'approccio e il metodo. Immigrati dall'Europa nei primi anni del Novecento, si ritrovano nella New York anni 50 alla guida della più grande fucina di talenti del cinema americano del dopoguerra. Ellen Burstyn, attrice premio Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese, ne parla con queste affettuose parole. Hello, I'm Ellen Burstyn. I'm standing in front of the back wall. Salve, sono Ellen Burstyn e mi trovo nella palestra di recitazione dell'Actor Studio, fondato nel 1947 come un seminario di recitazione. All'inizio gli iscritti erano 14, e oggi sono più di 500, con una filiale a Los Angeles. Io mi iscrissi all'età di 20 anni, quando Lee Strasberg era direttore e principale insegnante dello studio. Lui morì nel 1982 e ci fu un periodo di interregno che Lee a Kazan definì la Troica, composto dallo stesso Kazan e dal Pacino e da Arthur Penn. E poco tempo dopo venni scelta io, insieme ad Al, in qualità di codirettori artistici. Paul Newman fu eletto nostro presidente. La Burstyn e Pacino sono due delle innumerevoli stelle di Hollywood passate per la scuola newyorkese. Nomi e volti di fama mondiale, legati a interpretazioni indimenticabili. Robert De Niro, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Marlon Brando basterebbero da soli a giustificare la fama e il successo dell'Actor Studio. Ma la lista è ben più lunga e scorrendola lascia a bocca aperta. Nel 1950 Lee Strasberg assume la direzione della scuola fondata qualche anno prima assieme a Elia Kazan, il regista di origine greca che conosce dai tempi del Group Theater. Entrambi sono innamorati della recitazione e della psicotecnica, dalla quale Stanislavski ha tratto il suo metodo. Entrambi hanno un sogno: applicare il metodo all'arte cinematografica e insegnarlo a una nuova generazione di attori americani pronti a mettersi alla prova. Kazan definisce il suo compito con queste parole. Che genere di persona deve imparare a essere un regista? Un cacciatore bianco che guida un safari in territori pericolosi e sconosciuti. Uno psicanalista che tiene in piedi un paziente malgrado intollerabili tensioni. Un ipnotizzatore che lavora con l'inconscio per raggiungere i propri scopi. Deve avere la scaltrezza del commerciante di un bazar di Baghdad, la fermezza di un addestratore di animali, la dolcezza di una madre che tutto perdona, la severità di suo marito che non perdona niente, l'abilità di un ladro di gioielli, le chiacchiere suadenti di un PR, una pelle dura, un'anima sensibile. Contemporaneamente, Kazan è definito un regista di attori, capace di trasformare le ostilità tra attori sul set in memorabili momenti di tensione drammatica tra personaggi. Un modo di dirigere e insegnare dirompente, vigoroso, arrabbiato. I primi film sono per sua stessa ammissione teatro filmato. La prima grande svolta avviene nel 1947, con un Oscar alla regia per Barriera invisibile, nel quale scandaglia i labili confini che separano ipocrisia perbenista e antisemitismo nella New York da poco uscita dal secondo conflitto mondiale. Il successo a Hollywood lo spinge a tornare a Manhattan ancora più motivato e alla ricerca di qualcosa di nuovo, sperimentale, mai visto prima. In testa un unico obiettivo: affrontare alla radice il melodramma hollywoodiano e sradicarlo. E Lee Strasberg è l'uomo giusto da mettere a capo del suo ambizioso progetto. L'Actor Studio e il metodo sono stati la nostra rivolta contro il teatro eroico, romantico, retorico. La vita reale, o meglio, la resa più fedele possibile di essa, doveva prendere il posto sul palcoscenico dei modi affettati importati dal teatro ottocentesco. Io e Kazan definimmo ulteriormente i confini del metodo, portando a termine la nostra rivoluzione con un ultimo decisivo passo: l'ingresso del metodo nel cinema. Per Lee Strasberg, l'Actor Studio rappresenta l'approdo finale, la casa e il luogo di lavoro dove vivrà i successivi 30 anni senza risparmio di energie. Fin da quei primi pionieristici giorni, nelle sue lezioni, Strasberg punta essenzialmente su due tipi di esercizio: l'improvvisazione e la tecnica di memoria affettiva. In altre parole, la capacità di rivivere un avvenimento del proprio passato, rievocandone i sentimenti sopiti. Non più mera scuola di recitazione, ma grammatica di vita. L'Actor Studio diviene il principale punto di riferimento per generazioni di attori forgiate dal duo Strasberg-Kazan. Anche divi già affermati come Marilyn Monroe, Michael Caine e Rock Hudson accorrono alle sue lezioni per perfezionarsi e mettersi alla prova. Eppure non mancano gli scettici, dubitanti dell'effettiva bontà dello speciale training cui sono sottoposti gli attori dell'Actors. Spencer Tracy, attore noto per il sarcastico senso dell'umorismo, pronuncerà parole che paiono bocciare il metodo, ma che suonano invece come la sua definitiva investitura. Questi ragazzi di oggi mi dicono che dovrei provare questo nuovo metodo. Ma sono troppo anziano, troppo stanco e troppo bravo per interessarmene. A differenza di Spencer Tracy, qualcuno è convinto che l'Actor Studio possa essere la risposta vincente a una carriera che stenta a decollare. Nel 1952, alla porta del 432 West della 44esima strada, avvolto in un ruvido cappotto nero, l'eterna sigaretta pendente dalle labbra, bussa un 21enne di belle speranze. È minuto, timido, forse sull'orlo di una crisi nervosa, al punto da riuscire solo a balbettare il proprio nome al momento dell'iscrizione. James Dean entra allo studio come un uomo comune, destinato in soli 3 anni, sotto la sapiente guida dei suoi mentori, a divenire mito e icona per numerose generazioni a venire. Sentiamolo recitare nella scena madre di La Valle dell'Eden, unico film uscito in sala con Jimmy ancora in vita. I took Aaron there tonight because I was jealous. I've been jealous all my life. Jealous, I couldn't even stand it. Il terribile schianto sulla Route 466, mentre è alla guida di una Porsche 550 Spyder, spezza la vita e i sogni dell'attore più promettente della sua generazione. È il 30 settembre 1955 e mancano solo pochi mesi all'annuncio della sua nomination all'Oscar per l'interpretazione di Carl Tresk in La Valle dell'Eden, film diretto da Elia Kazan, a sua volta nominato dall'Academy per la regia. Kazan e Strasberg capiscono di aver perso un attore forse più grande di Brando, un allievo dal purissimo talento, capace di portare nei personaggi interpretati l'intatto tormento interiore di una gioventù bruciata. Dean entra nel mito, mentre all'Actor Studio, elaborando il lutto per la grave perdita e messi da parte dissidi e contestazioni legati al maccartismo, l'attività procede a gonfie vele. Le celebrità che dopo il training newyorkese si affermano nel panorama cinematografico, imponendosi per il loro talento, sono sempre più numerose. Dopo la generazione dei belli e impossibili, nei primi anni 70, lo studio accoglie una nuova nidiata di attori meno prestanti sul piano fisico, ma dotati di straordinarie capacità interpretative. And now, as the 20th century draws to a close, it's becoming apparent that that pioneering list includes the name of tonight's guest, Robert De Niro. And both Empire Magazine and Entertainment Weekly have listed him among the greatest movie stars of all. Dustin Hoffman. He is with Ellen Burstyn and Harvey Keitel. A co-president of the Actors Studio. He is Al Pacino. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a New York nei primi anni 70, più precisamente all'interno dell'Actor Studio, seduti ad ascoltare una lezione sul metodo di recitazione di Lee Strasberg, il direttore e cofondatore della scuola, assieme all'amico e regista Elia Kazan. Dopo aver seguito l'inizio della carriera dei primi studenti degli anni 50, tra i quali Marlon Brando e James Dean, Paul Newman e Steve McQueen, Audrey Hepburn e Jane Fonda, ora, seduti al cospetto del maestro, scorgiamo volti di giovani e sconosciuti studenti, destinati a diventare presto attori di fama mondiale. De Niro, Hoffman, Pacino, La Strip e ancora Harvey Keitel, Glenn Close, Sigourney Weaver. Una lista senza fine di cui ha fatto parte l'attuale direttore artistico, il premio Oscar Ellen Burstyn, che qui ascoltiamo rendere omaggio al suo maestro. Secondo Elia Kazan, Strasberg era il più grande insegnante di recitazione di tutti i tempi. Riusciva a guardarti dentro posando uno sguardo sul tuo lavoro più profondo dei raggi X. Io devo molto a lui, non solo come attrice, ma anche come essere umano, per i valori che mi ha insegnato. Lee Strasberg è un maestro non solo di recitazione, ma anche di vita. Un vero e proprio guru che spiega con queste parole la filosofia del suo mestiere. Il lavoro che facciamo, ciò che viene chiamato il metodo, non è altro che la somma totale delle esperienze di tanti grandi attori del passato, delle testimonianze e delle dichiarazioni che hanno lasciato e di ciò che abbiamo visto nella nostra esperienza. In fondo la recitazione non è altro che rivelazione. È dirci delle cose che in un certo modo sapevamo sulle persone, ma che ci dimentichiamo finché l'attore non ce le dice. Se accettiamo di seguire l'attore in questo viaggio dentro di noi, quello che troveremo sono cose che in un certo modo sapevamo. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. Secondo Strasberg, così come esistono tecniche per la voce e la memoria, è possibile inventare e praticare tecniche anche per i sentimenti, cioè procedimenti mediante i quali l'attore può attingere coscientemente ai processi della propria vita psichica interiore. Ed è verso questa tecnica dei sentimenti che Strasberg indirizza i suoi principali sforzi. Un numero relativamente ristretto di esercizi derivanti dal sistema di Stanislavski, ma sui quali Lee interviene in misura maggiore per attuarne il perfezionamento. Primo fra tutti, la capacità dell'attore di creare naturalezza e spontaneità, controllando le proprie azioni, unita all'abilità nel fare appello alla propria vita fisica e psichica in funzione del personaggio, memoria emotiva e improvvisazione, come fulcro del suo personale mondo. Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Cosa ha portato? Non mi chiede le esperienze teatrali? Ma è vero, mi scusi, esperienze teatrali? 2 anni con la Compagnia del Mortaio di Pescasseroli e con la commedia Le prime muffe del Melograno in autunno di Ferruccio Canarini. Cosa ha portato? E le esperienze cinematografiche? Ha ragione, mi scusi tanto. Esperienze cinematografiche? No, beh, non importa, grazie, può andare. Oggi non se ne esce, non se ne esce. Avanti un altro. Nome? Giordano Bragaglia. Anni? 42. Professione? Attore. Se è vero che l'Actor Studio ha raramente formato attori comici, talvolta è necessario non prendersi troppo sul serio, come nel caso della parodia di un provino degli attori romani Lillo e Greg. Più seria e dolorosa, invece, è la notizia che giunge allo studio la mattina del 18 febbraio 1982, quando a causa di un attacco cardiaco, Lee Strasberg lascia la vita e un grande vuoto nel mondo del cinema. L'amico e collega Elia Kazan gli sopravvive per altri 21 anni, durante i quali la sua attività subisce un forte rallentamento. Nel 1999 riceve l'Oscar alla carriera, il terzo, dopo Barriera invisibile e Fronte del Porto, dalle mani di De Niro e Scorsese. E anche se non tutti i presenti in platea si alzano ad applaudire l'anziano regista, memori del collaborazionismo alla lista McCarthy, la premiazione è un tributo commosso e sentito all'uomo che con Lee Strasberg ha regalato al cinema il prototipo dell'attore moderno e agli spettatori di tutto il mondo indelebili emozioni, immersi nel buio di una sala cinematografica. Sai, io non sarò mai come voi. Guardaci un bel film, se facciamo in tempo ci andrei.